Hideo. So great and high. But sir, we defend and protect it, also at the cost of the life. We brave a perfect war, and we will have it. A great king is not elected, it's a claim. Arditamente praticato l'azione per conoscere i miei limiti, persisto nel credere che l'arte è lo sforzo supremo della vita e che non v'è al mondo nulla di più insigne e di più importante. Dopo noi diremo che abbiamo cercato di rendere migliore questo mondo. Sognammo l'inumana perfezione, superammo l'irraggiungibile, segnammo nuovi limiti, varcammo l'immortalità. Ma il mondo ricorderà di noi per il male che ci ha voluto. Il mondo intero dimenticherà la grandezza delle nostre gesta, il valore dei nostri martiri. Martiri caduti per un sogno troppo audace. Il mondo dimenticherà i nostri insegnamenti e cancellerà le nostre opere. Dapprima sarà il caos, dopo noi solamente il nulla.